bicicletta, sta passeggiando. Ma trattore! Ehi! Ma trattore, chi è trattore? Ah, io lo faccio ridere. E beh, io non c'è mai già a casa. Soccorso! Io non mi chiudo la baracchina, domani sono qualche che ho staccato il microfono. Sono sistemato a casa. Ah. Ah, ma non sei a casa tua però. Ah, no, sono qua. Ah. Beh, non è se ci sta nessuno. Io ho continuato, non è che non ho fatto, ma... Ma ci si è ammazzato il radio, non ti ho capito. Ho detto, ho procurato una storm come la terra, appena procuro, il cavo me la piace. Ah, e quante metri te ne servono il cavo? Allora, sai che... Non ce l'ho, l'ho dato questo. Ma capo che abbiamo tornato, a chi che l'avevo dato? Boh, sempre che l'ho dato qua. Ah, cosa, Emanuele Lai l'avevo dato. Se ho sovrinato io, non ce l'ho. Sta uscendo basso e a tratti, Senti, prova. Adesso va bene. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene. Ho detto, diamolo compro, dai, non so cosa costa, va. Ah beh, e quel fine infatti, io ce l'avevo grosso, mentre non va bene per te quello fine, capito? Già costa poco quello lì. Vabbè, un po' di 58, forse una trentina di metro, tutto regalato, capito Giovanni? Vabbè dai, adesso mi assento che vado a fare una bella duccia, che freddo qua, è anche bollente. Altro affitto, ma già rimane attento qua, dai. Poi in tal caso già riprendo da casa, ti accompagnare a casa, sentiamo da casa. Io acceso qua, d'accordo, fai pure. Che busta zinnando anche tu paese? Prova. Adesso, 1, 2, 3. Che matto è? Stai scottolando. Deve essere qualcosa che è attaccato. Si attacca e si riattacca. Prova, 1, 2, 3. Prova radio. Ma quanto dura? E i fili li ho rifatti a nuovo. Non è da lì. Perché sto uscendo male sempre? No, non stai uscendo male, ma qualche volta manca. Ti sporco allora, dai. E cosa vuoi ti dica? Andiamo, bobo. Senta, sono nessuno. Sì, Giovaria. Salvo, vabbè, riprendiamo da casa comunque, dai. Sentiamo dopo il disegno. Ehi, già ce l'ho acceso. Tanto mi ricordo il televisore. Battisio! Attenzione, Battisio! Ok, hola! signor Bacchi. Attenzione Bacchiglio. Bacchiglio, San Marino. Attenzione Bacchiglio, San Marino. Bacchiglio. Signor Bacchiglio, signor Bacchiglio. La Storm 27. Sì, che l'ho conosciuta. Com'è che l'è? tipo bazooka. Sì, vabbè, ce l'ho, me l'hanno regalata, volevo sapere se com'era di... se funziona. Ma la... ce l'hai lì? E tondo. Ah, mi pare, aspetta, mi pare che sia... da stormo. Mi pare che sia come il bazooka. Forse vorrà pulita, perché non entra il PL. Avevo nuda per pulirla. Lo so, però vuole pulita. Luca, aspetta un attimino che entro su. Luca! Ehi, a to! Ehi, sempre vendeva, Già lo so, aspetta 2 secondi che sto allargando, pulendo il buco del coso, del... che non entra il PL dell'antenna. Dove? Ehi, dove mi senti? Sì che ti sento, basso ma ti sento. Ciao Re. Eia Luca. Questa roba di Guarremo che si antenna. Vuole attaccata bene a massa, vuole attaccata. Perché se no ti dà QRM, ti dà. Non devi provarla così. Ma mi sentivi comunque? Ehi, avviro. Che ti sentivo. Ma io attenno. Per forza, messa così non fa. Devi avere almeno un coso di massa, l'antenna. Ma chi io? E chi? Ebbè, dormi, dormi. Ehi, Gianmarì. Ebbè. Ehi, buonasera attore, ebbè, come si va? Ehi, chiata, ebbè. Ehi, zaffarato tu, zaffarato, Sto c'era tempo a cedere, capito? Ciao Rossi. Oh, c'era Luca che stava provando l'antenna, però non anda. Ah, Luca, no. Bacchisio. Lo senti giù. Se pensi la bufera. Ah, boh. Vabbè. Mi pare che ti metto un temporale. Avviro, ti metto l'ema e non ha senso oggi. Infatti. Avviro, e allora tu, se mi racconti? Cosa mi ti racconti? Sono in casa. Ah, non sei uscito allora. Non da che nulla. Non era brutta la giornata, va. Potevi anche farti un giretto in bicicletta. Oi, certo. Lo saranno, ho già farato un garrello lui. L'ho farato con un garrello lui. No, so che serve. Oh, tu non sei riuscito a far rendere un garrello lui. No, non ci sono andato là. Non lo so se vado domani o da Riddu, boh. Non lo so. Domani mattina devo andare a fare le analisi. Ah ah. Mi sembra che ho messo acqua pure domani, cazzo. Oh. Se piove nemmeno a Piazza dei Segni salgo io. Oh. Se piove sempre. E no, già salgo. Io devo andare... prima lascio a mio nipote a scuola, poi lascio la macchina vicino al metro e salgo in metro, salgo anche chi mi non ha un busticcio. Ma va, Palazzo Rosa? No, oh, alle cliniche di San Pietro vado. Ah, li fai lì, ho capito. Centro di abitico. Lo dice che l'avevano cambiato, invece è ancora lì. No, il coso per fare le analisi è sempre lì. L'ambulatorio. Il coso è dall'altra parte, l'hanno cambiato dove era prima. Ah, capito. Senti già bene, prima andavo lì, io e San Pietro io, di fronte al palazzo, quello di mattoni. Però da voi, era la mattina di Ivi, allora Gesù Buzzù si abbandona tutto e mi sono andato a un altro luogo, per carità. Era come capo cosa era dottor Pacifico lì. Io c'ho a lui. Era il dottoressi, gatto, che faceva di azzai, sembra ma con un disponibile di bene, certo. mi raggiare cazzo di bacchiglie e non sono riuscito a sapere a cosa erano i bacchiglie. Ammazzati, Viviani. No, a me mi sta dando tutto giusto. Se non lo riuscirebbe a capire la freschia di queste partite, voi immaginate, non sono riuscito, non è riuscito a sapere a che cosa era questa partita, capito? E a me mi stavano facendo male. Da poi mi ha dato un'altra. Le partite, cazzo, io c'è di a capugia a sperimenti. Cazzo, un bazzaro l'ha già usa e ti l'ha giù, tu così così, tu non hai preso più di un'altra di quella passione, mi sono facendo male, sono a capugia così così. No, lei la deve prendere, assolutamente, la deve prendere per forza. Cazzo, riposo mi ha fatto. Vai a matta, ti vai. No, a me non mi hanno mai fatto voce. Vuol dire che era antipatico io. A me mi ha trattato sempre bene, con calma, tutto canto. Tutto sempre tranquillo. Bisogna vedere che il dottore Savai, io poi me la metto con il giapapa chissà. Ma sono chi la grossa, grossa era, cazzo. Per carità. No, io ho dottor Pacifico e basta, non ha giù altro. E poi c'avevo quella che mi ha dato la dieta, che era una signoraccia. No, io vado che c'ho dottoressa che la bassa e cicciola. Poi la diabetologa era da una, Masela, Masela, la dottoressa Masela. La chissà era brava. Quella era molto brava, ragazzi. Ma chi c'è che ne faccia ambientare, cazzo, aiuto? Non so che sei, me la mappa di chi c'è. No, io ho quello lì, è sempre lui che mi sta seguendo. Che stavamo, ma dove è, ma dove? Domani avanzano quando posso le analisi, lo so. Anzi, beh, ma dicevo, prima mi faccio l'orologoso io, contro la mia glicemia, prima. Vabbè. Ma quando sto per chi tu già era bravo? Era bravo, cazzo. Non c'era via io, faccia piedi. Ma fino a favoraggio. Ma fino a favoraggio. E via per la mia moglie, che è andata a dire a dottor Pacifico, dice che io dice andavo a casa di mia zia, dice che c'è padre non avevo, che era favoraggio. E mi ha detto, boh, c'era vera di denunziarla. La dottore Ciavea di casa mi ha detto, ma a denunziarla, poteva denunziarla direttamente. Ma che si ti ha derzaccato la telefonata che ha giù fatto quando mi sentia male dando una ciappata e se la riuscita boh, è una ma già ve l'ha giudizio un cazzo, ha dimollato e detto vai fatti friggere per carità il cazzo purtroppo. Vabbè dai Gio Marì, mi faccio meglio, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok. Stammi bene Gio Marì. D'accordo, dottor. Buon proseguimento, salutori in casa e ci sentiamo domani, ciao. Va bene, saluto anche a Luca, se è ancora in ascolto. E chiudo anch'io, dai, ciao. Ciao Gio Marì. Luca! Ehi, aspetta, amico, va, sto facendo una prova, ciao Gio Marì, aspetta. Allora. Stazionarie 1 e 3. Insomma, così è. Vanno bene. Ehi, vabbè, sta piovendo anche. Lascia vedere. E invece come watt siamo a 8 watt. Certo, c'è altro di watt. Vabbè, dai. Se state andando, allora buonanotte a domani, dai. E ho finito. Poi di domani provo con l'antenna là. Giù. A domani, ciao Gio Maria, ciao Antonio, buonanotte, ciao. Ok, ciao Luca.